Allora, si tratta di un viaggio. Noi abbiamo percepito la mostra proprio come un itinerario che ci accompagnerà a conoscere questi mostri giapponesi, dove alcuni dei visitatori non li conoscono per nulla, quindi vedranno in che caratteristiche sono completamente dissimili dai nostri. E mentre invece gli appassionati dei mostri potranno approfondire le storie che riguardano le tipologie dei mostri e si potrà verificare se li conosce correttamente oppure si applicano in maniera errata delle interpretazioni che fanno parte del nostro bagaglio culturale e non quello invece giapponese, come ad esempio il soprannaturale e la mitologia giapponesi non esistono. A cosa si ispira questa mostra quindi? Allora, si ispira a un viaggio che potremmo dire un po' enciclopedico, però se il fine è comunque quello scientifico, si cerca di affascinare con la narrazione e poi con una varietà di opere che è molto variegata, per cui può soddisfare un gruppo eterogeneo. La mostra si apre con una sala particolare, ispirata a un antico rituale, ma cosa potranno trovare in particolare i visitatori in questa sala? Sì, in questa sala c'è il rituale delle 100 candele e infatti dal 1600 in poi c'è la lunga Pax Tokugawa, quindi i samurai si ritrovano improvvisamente a non poter più dimostrare il proprio coraggio sul campo di battaglia e si inventano nella prima metà del 600 questo gioco, ma che gioco barra rituale dove tutti si richiudevano in una stanza, raccontavano a turno delle storie di paura cercando di spaventarsi e ad ogni conclusione di storia spegnevano una candela, quindi l'ambiente diventava sempre più lugubre. L'abilità degli samurai era quella di lasciare per ultimi quelle più spaventose. Allo spegnimento dell'ultima candela, quando ci sarebbe stato il buio, nel rituale sarebbe arrivato un mostro ad aggredirli e soprattutto ci dice come mai le leggende giapponesi spesso finiscono male, perché il mostro doveva essere libero e vivo per poter aggredire anche l'ascoltatore che ritornava a casa la notte. Oltre alle stampe, che tipo di opere saranno esposte? Allora, ci sono delle armi e delle armature che vengono dal Museo d'Arte Orientale Mazzocchi in Franciacorta, di cui sono direttore, e poi ci sono invece da parte di collezionisti privati le opere più variegate, per cui c'è un puntale di pagoda, ci sono degli specchi in bronzo di una collezionista, abbiamo poi alcune armi della polizia giapponese e altri rotoli dipinti e altre cose particolari come i libretti illustrati, che erano una sorta di telenovelas dove alcuni, come lo Shiranui Monogatari, è stato serializzato per 30 anni. Benissimo, grazie.